c'entro mai. Sua moglie sembra un cane bastonato, infatti qualche volta vai. E poi ha 1, 2, 3 figli che combinano guai. Anche se non ne vuoi. Anche se non ci stai. Sergio ha un figlio che si buca e gli ruba la pensione. Un altro che vuol diventare ricco, chissà che cosa fa. Ma poi all'improvviso nasce quasi un sorriso che spacca il buio del suo viso, come se avesse capito la vita che cos'è. Oh, ah. Anche se male fa, anche senza felicità, se Jack sta seduto per ore e non parla mai, tutta la vita a fare e a disfare non va bene. Giorni tutti uguali senza capirci niente. Boom boom, chiude gli occhi e un'altra smorfia se ne va. Ma poi quel sorriso è un angelo all'improvviso, scende giù dal paradiso, gli parla piano all'orecchio, poi torna su. Oh, oh, oh. Anche se male fa, oh, perché non c'è età, oh, anche se non ti dà, anche senza felicità. Senza felicità.